9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 23 di novembre. E ve l'ho detto lanciando la trasmissione, oggi ci occupiamo di un tema che praticamente unisce quasi tutti i partiti, tranne pochissime eccezioni, i radicali, il Movimento 5 Stelle di Grillo, ma insomma quelli che siamo abituati a considerare la maggioranza e l'opposizione, il più dell'opposizione parlamentare, invece sono tutti uniti su questo tema. Ma prima di arrivare a questo, lasciate che io vi legga due delle tante lettere che continuo a ricevere dopo le trasmissioni che la scorsa settimana abbiamo dedicato al tema delle tasse, sul quale torneremo per forza, perché abbiamo proprio l'impressione che sia un tema che fa vibrare la corda profonda di molti piccoli, piccolissimi imprenditori, commercianti, artigiani. Io immagino che una parte degli ascoltatori, e lo so, mi sforzo di rispondere a tutti, su questo vibri di indignazione, sia convinto che noi diamo spazio a chi non le paga mentre loro le pagano, però io sono invece convinto che noi diamo voce ai tanti che si trovano per ragioni varie e diverse, per come l'Agenzia delle Entrate ormai è organizzata e conduce le sue attività e premia i suoi dirigenti, tra l'altro in ragione della proporzione dei risultati che portano a casa, per via dell'interpretazione data dalla Corte di Cassazione unilateralmente a favore dell'Agenzia delle Entrate dello Stato nei confronti del contribuente, per tante altre ragioni ci sono pacchi di centinaia di migliaia di contribuenti che si trovano a mal partito, non perché non le vogliano pagare. O meglio, vediamo due situazioni, ho scelto due tra le lettere più particolari, secondo me, che testimoniano questo malessere. Quindi un paio di minuti dedichiamolo a questo e poi andiamo direttamente al punto invece dei rimborsi elettorali. Allora, prima lettera. Caro Oscar, mi chiamo Michele, sono un ragazzo di 30 anni di Verona, diplomato in elettronica e telecomunicazioni, lavoro dal 2001 come dipendente per 1000 euro mese, ambizioso, anche un po' per costrizione, visto lo stipendio. Nel 2004 apro una partita IVA come venditore su internet attraverso il mio sito web. Spesso al weekend vado a fare dei mercati come ambulante. Ho deciso di dedicare tutto il mio tempo libero, serate, nottate, weekend, a far crescere la mia attività di piccolo imprenditore. L'ho fatto per libera scelta, con la speranza un giorno di poter raggiungere il mio sogno, avere la mia azienda. Molte volte mi chiedo, ma perché non sono come i colleghi d'ufficio che timbrano il cartellino, la sera vanno in palestra, il weekend si riposano? Io no, corro, preferisco, lavoro, lavoro, lavoro. Arrivo anche a fare 80 ore alla settimana tra il mio lavoro da dipendente e quello improprio, ma va bene così, mi dico. Vedrai che l'anno prossimo i numeri crescono e finalmente ti potrai dedicare alla tua attività. Ma ogni anno i conti non sono sufficienti a fare il lavoro autonomo, così rimando, anche perché vivo con la mia ragazza e abbiamo l'affitto da pagare. Ho sempre pagato quello che dovevo pagare, tasse da dipendente prelevate alla fonte, ovviamente più le tasse da autonomo. Fin qua niente di strano. Se non fosse che i guadagni nel lavoro a partita IVA sono davvero esigui, tanto più che un po' di volte mi sono chiesto se tutto questo sacrificio ne valga davvero la pena. Arrivo al dunque. Una bella mattinata di quest'anno alle 6:30 sono in maniera decisa al campanello, io e la mia ragazza stiamo ancora dormendo, in quanto la sveglia per recarsi in ufficio suona alle 7:15. Mi alzo, apro la porta, piombano in casa tre finanzieri con un mandato di perquisizione autorizzato da prefetto alla ricerca di non capisco cosa. Li faccio accomodare, mi chiedono la documentazione della mia piccola azienda, consegno il tutto, erano 2005, 2006, 2007, 2008, che si riducono poi a 3-4 contenitori, capirai, una minuscola attività oltretutto part time, ha una contabilità esigua. Noto che sono armati e causa anche l'alzata improvvisa del letto, sono davvero confuso. Mi sembra di essere in un film, comincio a pensare di essere vittima di un errore, ho paura. Leggo più volte il mandato mentre loro perquisiscono la casa, il mio nome e l'indirizzo però sono corretti. Mi affiorano un sacco di pensieri, ma com'è possibile che tre militari armati girino per casa di uno che ha uno stipendio di 1000 euro al mese, in un appartamento esiguo degli anni 70? Ma sono un evasore? Sono diventato un evasore e non lo so? Ma che cosa ho fatto? Che cosa ho sottratto al fisco senza neanche rendermene conto? Cavolo, con la busta paga che prendo e con la mia attività di piccolo imprenditore riesco sì e no a pagare l'affitto. Mi dicono comunque che posso farmi assistere da un legale, lo chiamo. Ho davvero paura di essere vittima di un equivoco. L'avvocato arriva, parla con loro, legge il mandato e mi tranquillizzo. Si tratta solo di una verifica fiscale, mi dice. Vabbè. Io e la mia ragazza non ci richiamo al lavoro, prendiamo ferie forzate perché le operazioni si concludono alle 12:30 circa. Portano via tutta la documentazione, mi dicono che mi faranno sapere. Hanno perquisito tutta la casa, persino i cassetti della biancheria intima della mia fidanzata. Certo, lo hanno fatto comunque in maniera abbastanza discreta, senza mettere a disordine, hanno voluto che fossi io ad aprire i cassetti, a metà mattinata ho fatto loro anche il caffè, ma io comunque insieme alla mia fidanzata resto scosso e turbato. So che da quando ti fanno un controllo qualcosa lo devono trovare per forza. Passano 4 mesi, mi chiamano in caserma per consegnarmi i verbali e farmi sapere cosa hanno trovato. Leggo i verbali, sbianco. Hanno trovato qualcosa in ciascun anno controllato. L'avvocato mi tranquillizza, ma non si preoccupi, è normale, vedrà, ce la chiamiamo con poco, la chiameranno dall'agenzia delle entrate e con l'aiuto del suo avvocato e del commercialista le cose si sistemeranno. Ad oggi sono ancora in attesa. La cosa che mi preoccupa davvero è che mi contestano cose che neanche ho fatto, vorrebbero da me soldi che davvero non ho mai guadagnato. È assurdo, avevo aperto la partita IVA perché avevo il regime agevolato sotto i 25 anni, mi avevano dato anche un tutor all'agenzia delle entrate che proprio bene non mi aveva seguito, ora vengono loro stessi da me a perquisirmi la casa, a rovistare anche tra la biancheria intima nei cassetti della camera. Mi chiedo, ma com'è possibile tutto ciò? Qui non basta pagare tutto quello che c'è da pagare, tasse, INPS, eccetera, eccetera. Qui non conviene a volte, inizio a immaginare. In questo paese che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo forse lavorare tutti per lo Stato, anche pagando per ciò che non dobbiamo pagare? Per evitare che poi vengano a controllarci e in nome poi del fatto di evitare guai peggiori sia lo stesso avvocato a dirmi che è meglio pagare? Per che cosa? Per soldi che non ho evaso? Per redditi che non ho incassato? E questa è la morale, è questo che lo Stato mi vuole trasmettere. Ecco questo, un primo ascoltatore, non lo so, vi sembra un evasore? A me non sembra un evasore, può essere che ci sbagliamo ovviamente, può essere che lui fosse inconsapevole del suo dovere fiscale, o può essere invece che appunto i sistemi di controllo random a caso su chi ha una partita IVA e un piccolo autonomo e commerciante adottati dallo Stato siano questi. Io credo che sia vera questa seconda cosa. Poi ve ne leggo un'altra, breve, la faccio breve, perché questa l'ho pubblicata sul mio sito www.chicagoblog.it e questa invece è un'altra, è la confessione di un evasore vero, confesso. Io sul sito ho evitato il nome perché sul sito poi non sono corresponsabile di quello a cui andrebbe incontro, lui voleva firmarla. E io gli ho detto, guarda, è meglio per te che non te la firmo, però ho accertato, le cose stanno tutte esattamente come ci dice. Mi presento, sono un evasore, ho 27 anni. Per la verità non mi sento tale, ma so che chiunque può dettarmi così. La ragione è l'ingenuità sulle tasse della mia startup di impresa che adesso inizia a ingranare a 2 anni di distanza e io inizio a chiedermi come faccio oramai a pagarle queste maledette tasse. Importo prodotti provenienti da paesi extraeuropei e anche alcuni dell'Unione Europea, alcuni sono anche realizzati qui. L'ho fatto per abbattere una politica di oligopolio che c'è nel particolare settore dove opero. Lo dico da subito, ho procrastinato, rimandato il problema delle tasse fino ad oggi, facendolo diventare attualmente il mio incubo. Aggiungo anche, sono un college dropout, ho mollato scienze politiche e comunicazione a 20 anni, ho mollato l'università per inseguire dei sogni che ritenevo possibili, fare impresa, creare un'idea seria. Ora però sono nei guai fino al collo. Non so come e perché pagare le tasse, per 2 ragioni. La prima, le situazioni accumulate in 2 anni a quanto pare non sono risolvibili dai commercialisti. I commercialisti stessi sono spaventati dal mio modello di business fatto di importazioni e canali di distribuzione alternative come l'e-commerce. Non vogliono nemmeno suggerirmi qualche aiuto per pagare un po' meno di quel che dovrei, scusate la franchezza con cui lo dico. A loro volta rimandano la situazione del 2009 mentre quella del 2010 diventa sempre più oscura. E quindi si accumula una tragica assenza di formazione, o meglio confusione, vera. L'ottimo sito dell'Agenzia delle Entrate dà informazioni tramite manuali all'uso del fisco che poi non trovano riscontro con quelli che i commercialisti dicono. Anzi, qua si tratta di fattispecie esattamente opposte. Seconda ragione, più di concetto, meno giustificabile. Cosa ha fatto il sistema Italia per me? Da quando sono al mondo ho visto solo disagi e tradimenti. Lungo elenco sul quale io non sono d'accordo. Il suo liceo chiuso, le banche che gli hanno negato credito, eccetera, eccetera. Una lunga sequela di ragioni, nessuna delle quali da sola però può giustificare quello che lui ha fatto. In conclusione, dice, non voglio fare di tutto erba un fascio, ho incontrato esempi positivi in università e fuori. Il sistema Italia ha comunque il pregio di avermi fatto diventare cittadino europeo. Non ho barriere all'interno dell'Europa, la mia ragazza è in quel paese industrializzato che sta più a nord del nostro, viaggio molto grazie all'inglese e l'Europa ha aperto i miei occhi. Però non è grazie a questo sistema, non è grazie alle sue tasse, non è grazie a questo Stato, sono il mio americano influente, se ho avviato un'impresa, se ho avuto la testa e la caparbietà per farlo. Il problema è che l'introito personale che ho non mi qualifica dentro la generazione 1000 euro al mese, di cui ho comunque fatto parte per anni vivendo il disagio. Per questo sistema io però sono un evasore, mi sento un evasore, mi faccio male da solo. Se vado, prima o poi la pagherò. Se non ne vado, la pago comunque, perché una startup di 2 anni non sopravvive se si ravvede. Non sopravvive se si ravvede. Quando dico se si ravvede, intendo che se avessi dovuto pagare il tutto che mi dice il commercialista oggi, fin dall'inizio, l'impresa non sarebbe arrivata dov'è. Non l'ho fatto e ora il commercialista e le agenzie delle entrate mi dicono 2 cose diverse. Per questo vi dico, qualunque cosa avessi fatto o farò oggi, credo di amare comunque il mio paese, di viverlo con disincanto, però a questo punto di dover pagare un costo, perché la mia ingenuità e la mia illusione, in ogni caso, hanno prodotto un'idea di impresa che molto probabilmente è destinata a non sopravvivere. Ecco, queste 2 testimonianze diverse ve le ho volute dare, perché ne abbiamo decine e decine così, che secondo me varrebbero la pena di inscenare un vero canovaccio per rappresentare questa nuova figura del cittadino italiano vessato, tormentato, al limite del rispetto della legge, dell'ignoranza della legge e della persecuzione la mattina presto dai finanzieri che ti arrivano e ti trovano comunque qualcosa a casa. Ed ecco invece l'altra Italia, quella diciamo ufficiale della politica, che si comporta con il rimborso elettorale ai partiti in una maniera diciamo leggermente diversa, pare a me almeno, dallo scrupolo che nell'osservanza della legge rigorosa fiscale viene richiesto dall'Agenzia delle Entrate. Perché, lo ricapitolo a chiunque se lo fosse dimenticato, noi viviamo in un paese in cui c'era stato un referendum in cui il popolo sovrano aveva detto, nel referendum di iniziativa dei radicali, aprile 1993, il 90,8% degli italiani si espresse per sopprimere i finanziamenti pubblici ai partiti. Sappiamo quel che è successo dopo, che dai finanziamenti pubblici ai partiti, che erano stati introdotti nella legge Piccoli del 74, dopo questo referendum sono stati reintrodotti sub specie di rimborsi elettorali, distinguendo artatamente tra il finanziamento pubblico del partito in quanto tale e invece il mero rimborso delle spese sostenute per le elezioni. Se non che cosa avviene? Che queste spese, il rimborso elettorale si gonfia fino ad assumere praticamente le proporzioni di 500 milioni di euro per ogni elezione che i partiti si attribuiscono, abbassando sempre di più la quota per averne diritto fino a tenerla all'1% e fino ad arrivare allo scandalo poi di tenersela, di dichiarare di tenersela anche quando la legislatura dura praticamente nulla e però si incassa per 5 anni. La Corte dei Conti dichiarato che in parole povere risultano più o meno un quinto delle spese sostenute rispetto al totale degli incassi. Perché ci parliamo di questo argomento? Perché ieri su uno dei siti che mi capita spesso di segnalarvi, Noise from America, quello del professor Michele Boldrini, di Alberto Bisin, per intenderci, quello di cui ci siamo occupati quando insieme a loro abbiamo parlato del libro dedicato a Tremonti, istruzioni per l'uso, Giancarlo Pagliarini ha scritto un bellissimo articolo riepilogando le critiche di questo, le cifre e le critiche di questo scandalo, che è quello dei rimborsi elettorali. Ex ministro, ora consigliere comunale a Milano, Giancarlo Pagliarini è qui con noi e io molto lo ringrazio, insieme a Rita Bernardini, deputato radicale del PD, e perché Dio ci conservi radicali per le loro battaglie su questo. Io inizio salutando entrambi. Buongiorno a Pagliarini. Buongiorno. E la salve, Oscar. E buongiorno a Bernardini, vi siete sovrapposti sulla voce. Ma il buongiorno c'è. E buongiorno c'è, esattamente. Allora, Giancarlo, come la mettiamo con queste cifre? Ce le ricordi un secondo? Ma sì, tu hai già fatto una sintesi perfetta. In pratica questi signori chiamano rimborsi delle cose che sono veri e propri finanziamenti. Ne dico il primo che mi viene in mente: il PD nel 2008 ha speso 18 milioni di euro per la campagna elettorale, la legge si chiama rimborsi, se uno spende 18 milioni cosa gli rimborsi? Al massimo 18, no? Ne incassano 180. Ma voglio dire, ma ci sono dentro tutti, salvo i radicali, c'è dentro PDL, la Lega e compagnia bella, è un vero e proprio finanziamento, ma il punto è che siamo arrivati a cifre assurde, pazzesche. Durante l'anno 2008, per esempio, solo come rimborsi i partiti si sono messi in tasca una cifra che è superiore a quello che abbiamo stanziato per la Fiat di Termini Imerese, eccetera. Cioè, sono cifre enormi e io ho una convinzione. tutto il rebelotto che sta succedendo adesso giù a Roma, sai, Fini, Berlusconi, elezioni anticipate, eccetera, è tutta scena, sono tutte palle, lo fanno per fare una bella campagna elettorale e mettersi in tasca centinaia di milioni. Ha detto ogni elezione costa circa 500 milioni di euro, ma ci rendiamo conto cosa sono 500 milioni di euro? È una cosa folle, è assurdo. Direi di sì, perché soprattutto io trovo pazzesco che si possa pensare, una volta introdotto il principio dopo l'abolizione del finanziamento che bisogna dargli i soldi per il rimborso, trovo pazzesco che le cifre che poi questi signori incassano sia 5-6 volte, fai anche un conto della la leva de, per esempio di Rifondazione Comunista che arriva a dei multipli da Bill Gates, cioè che si incassino cifre a prescindere da quelle che si spendono davvero, perché questa mi sembra una roba che non esiste, non so come dire, oltretutto in terra. E molti dicono ma però la politica dei costi, non è, io non ho capito perché la politica deve costare, non ho mica capito, cioè in Svizzera uno fa il parlamentare però lui per campare lavora, ecco, no, poi si dedica alla politica cercando di fare buona amministrazione, non lotta politica. Questi soldi servono per la lotta politica, non per la buona amministrazione, che è tutta un'altra cosa. Ecco qua, l'esempio di Giancarlo Pagliarini è questo: dal 2008 il Partito di Rifondazione Comunista non è presente in Parlamento, ma continua a incassare fino al 2010 la sua quota del rimborso delle elezioni del 9 e 10 aprile 2006, quando aveva battuto tutti i record. Le spese complessivamente accertate dalla Corte dei Conti erano state di 1.636.000 euro. I voti ottenuti gli avevano dato il diritto di ricevere dalla pubblica amministrazione 6.987.000 euro all'anno per 5 anni. In totale, a fronte di una spesa documentata di 1.636.000 euro, invece rimborsi per 34.932.000 euro. 100 euro investiti da Rifondazione Comunista nella campagna elettorale del 2006 sono diventati 2.135 euro a spese del contribuente, un ritorno dell'investimento straordinario. Per le elezioni del 2008, perché qui altrimenti non vorrei che pensaste che Pagliarini e anche il sottoscritto, adesso abbiamo citato Rifondazione perché vogliamo fare polemica solo da una parte, no, aspettate un secondo. Per le elezioni del 2008 il record invece spetta alla Lega Nord. Le spese accertate dalla Corte dei Conti sono state di 2.940.000 euro e i voti ottenuti hanno dato al Carroccio il diritto di ricevere dalla pubblica amministrazione 8.277.000 euro all'anno per 5 anni, in totale 41.885.000 euro. Dunque 100 euro investiti dalla Lega nella campagna elettorale del 2008 sono diventati 1.408 euro e così via. C'è l'esempio per ogni partito. Rita Bernardini, che si può fare? Ma c'è da essere sconsolati. A me la cosa che preoccupa di più è che nessuno si è scandalizzato da una vera e propria rapina fatta non del denaro, non voglio parlare di questo, ma di un voto popolare previsto dalla nostra Costituzione con i referendum. Insomma, ai radicali i referendum sono costati moltissimo. L'averlo vinto nel 1993, ci avevamo provato anche nel 77 non riuscendoci, abbiamo insistito, ecco, ma aver vinto nel referendum non ha significato poi ottenere quello che gli italiani volevano, cioè l'abolizione del finanziamento pubblico. Ecco, questa è una ferita alla democrazia che non può essere rimarginata se non con la restituzione di tutti i denari incassati dal 93 ad oggi e quindi il ripristino della volontà degli elettori. Questo bisognerebbe ottenere perché è stata una vera e propria rapina, come avete dimostrato chiaramente con le cifre. Cioè il rimborso elettorale è indipendente da quanto si è speso nella campagna elettorale. Noi avevamo dato una definizione all'epoca, rimborseggio elettorale, perché dobbiamo poi tenere presente, solo parlando delle ultime legislature, che praticamente i contributi vengono pagati fino per le elezioni del 2006 fino al 2011, per le elezioni del 2008 fino al 2013, per quelle che ci saranno nel prossimo anno, molto probabilmente fino al 2016. Quindi il far cadere la legislatura è diventato per i partiti un modo per entrare nelle tasche degli italiani e per fare questa vera e propria rapina. Quindi le elezioni anticipate sono in realtà una rapina, perché non è che si sospendono i finanziamenti precedenti, no, quelli continuano ad essere erogati. E dal 2011 fino al 2016, anche se la legislatura si interromperà, comunque quei soldi verranno pagati ogni anno. Bene, sono dei rapinatori, io sono d'accordo con Rita Bernardini, in questo caso lo Stato è ladro, lo Stato è corruttore, lo Stato è corrotto, e se una parte di voi pensano che io ce l'abbia così per le tasse, vi autorizzo a pensarlo, perché siccome io non mi posso comportare come lo Stato si comporta, per via dei politici pro tempore che sono in maggioranza, però è una maggioranza ampia, perché su temi come questi, tranne i radicali, tranne i grillini, tranne per alcuni aspetti l'Italia dei Valori, per alcuni aspetti. Quali? Insomma, ecco, infatti, adesso dirò quali perché faccio l'esempio, solo per questo lo dico, ma insomma, diciamo, gli altri non mi pare che facciano grande eccezione. Ho citato l'Italia dei Valori perché talvolta in Parlamento prende iniziative su questi temi che, diciamo, cavalcano almeno l'onda, poi in realtà compartecipa anche lei in pieno, perché a differenza degli altri che hanno una misura diversa e anzi i soldi poi tentano anche di rifiutarli. Perché cito l'Italia dei Valori? Per via di questa famosa cosa che per mesi è rimbalzata solo su internet, perché sui grandi giornali non ha avuto molto spazio, la votazione del 21 settembre. Si trattava del vitalizio dei parlamentari, in quel caso era il deputato appunto Antonio Borghese dell'Italia dei Valori a proporre l'abolizione del vitalizio che spetta ai parlamentari, ve lo ricordo, dopo soli 5 anni di legislatura, rispetto a qualunque lavoratore che deve passare ormai 40 anni di contributi per avere diritto ad una pensione. Sapete anche, sappiamo che è indipendente dal compimento dei 5 anni di legislatura anche questo, e alla sua proposta erano presenti 525 deputati, votanti 520, astenuti 5, maggioranza prevista 261, hanno votato sì all'abrogazione in 22, hanno votato no in 498. Ecco quali sono i numeri della convergenza dei signori dei partiti sui loro privilegi. Pubblicità. Ed eccoci tornati in studio. Rita Bernardini, poi voi siete benemeriti anche perché, a dire la verità, non c'è solo lo scandalo che stornate sempre dei rimborsi elettorali. Quest'estate avete animato anche qui, senza troppo, diciamo, eco della stampa, troppa attenzione, ma in maniera benemerita, e quindi c'è chi vede come noi e poi se lo ricorda e lo tira fuori quando è il momento giusto, la campagna che avete fatto per poi tutti i costi in più che al Parlamento sono gli affitti dei palazzi, eccetera eccetera, altre lì sberle di soldi nella disattenzione, anzi nella convergenza generale, perché poi di solito le presidenze di Camera e Senato, siccome si alternano di schieramento diverse legislature, si trovano alla fine tutti d'accordo e convergenti, che alla fine è il fasto, l'aumento degli uffici, l'aumento le dotazioni, è come se fosse una specie di gara a salvaguardare il prestigio delle istituzioni. Ma cosa c'entra il prestigio delle istituzioni con ste pacche di centinaia di milioni e magari un po' di piacerini fatti a qualche gruppo immobiliare? Sì, beh, piacerini consistenti, perché noi abbiamo ottenuto per la prima volta la lista dei fornitori e dei consulenti. Guardate che il Parlamento, la Camera dei Deputati, ha resistito tantissimo per darci questa lista, addirittura i questori hanno mentito in aula quando era in discussione il bilancio del 2009, dicendo che non potevamo avere la lista dei fornitori e dei consulenti e i contratti perché lo impediva l'Europa, pensate. Dopodiché abbiamo scovato... Cioè una specie di segreto di Stato. Esatto. Abbiamo scovato un articolo di un regolamento sconosciuto ai deputati e ancora non è stato messo online, che è il regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei Deputati, che all'articolo 68,4 dà un diritto di accesso diretto al deputato a queste liste e ai contratti. È così che siamo venuti a sapere con cifre precise che c'è una società, la Milano 90, che è di proprietà del palazzinaro romano, lo vogliamo chiamare così, Scarpellini, il quale ha affittato a partire dal 2007 questi palazzi, i palazzi marini alla Camera dei Deputati con cifre esorbitanti, con le quali la Camera avrebbe potuto tranquillamente acquistare quei palazzi. ma addirittura i contratti di affitto sono stati stipulati con la Camera dei Deputati prima ancora che Milano 90 ne divenisse proprietaria. A leggere questi contratti uno rimane a bocca aperta, e la Camera ha pagato. C'è da chiedersi perché abbia pagato e paghi tra affitti e servizi ogni anno a Milano 90 circa 54 milioni di euro per dare ad ogni deputato un ufficio. Praticamente per ogni deputato vengono spesi circa 9.000 euro al mese per dare una stanza di pochi metri quadrati con i computer, il collegamento internet, fax e telefono. Beh, ma 9.000 euro al mese? Insomma sono... È una penso bella che cifrotta. Qualcuno ci può andare al Grand Hotel, no? Direi di sì. Poi mi ricordo anche che avevate fatto una ricognizione, una metratura che era pari superiore a 3 volte il Louvre, se non mi ricordo male, il totale delle superfici. Cioè, stiamo parlando di cose che, a mio giudizio, comprovano esclusivamente che non c'è limite e non c'è vincolo. Io in queste tipo di scelte tendo a essere, non per qualunque, ma per fare riflettere voi in ascolto sulle serie storiche di chi si è succeduto alle cariche poi del Presidente di Camera e Senato nella diversa legislatura, tendo a far convergere anche qui, come nei numeri del no alla votazione sul vitalizio del parlamentare, c'è una convergenza bipartisan schiacciante sul fatto che poi dei denari pubblici, anche perché poi voi lo sapete, i denari di Camera e Senato, stiamo parlando delle grandi istituzioni repubbliche che non sono soggette al regime di controllo ordinario della Corte dei Conti, altra roba che per me è totalmente incomprensibile, non si capisce perché ci devono essere questi criteri di particolare opacità su come si spendono i soldi là, quando dovrebbe essere l'esatto opposto. Sentiamo come la pensano un po' di voi su questi argomenti. Antonio, dalla provincia di Torino, prego. Io volevo dire questo, dottor Giannino. I rimborsi vengono computati con riferimento ai votanti o a quelli che hanno diritto? Perché in quest'ultimo caso evidentemente la platea dei rimborsi aumenta enormemente. A me risulta che vengono pagati tutti i rimborsi con riferimento a quelli che hanno diritto al voto, anche se non vanno a votare. Bene, Antonio ci chiede un criterio tecnico, adesso sentiamo un'altra telefonata e poi facciamo rispondere immediatamente Bernardini e Pagliarini. Giovanni da Roma, prego Giovanni. Buongiorno agli ascoltatori. Io avevo sentito la parte iniziale della trasmissione, la vicenda dei contribuenti vessati. Esatto. Io sono un dirigente d'azienda, faccio parte di quella sparuta minoranza di latte italiani, lo 0,1%, che ha un reddito lordo superiore ai 200.000 euro. E siamo pochissimi, siamo pochi fessi, ci sono pure io, caro il mio Giovanni. Siamo poche migliaia, tutte le volte sono costretto a stupirmi. Tra un po' faremo una festa, cioè ci incontriamo a casa di qualcuno, per come siamo pochi. Esattamente, siamo talmente pochi che... E conseguentemente io pago il 53% di imposte. Siamo fratelli di sventura, sì. Esatto, però poi alla fine presento il 7,30 perché chiaramente oltre al reddito dipendente ho una casa a Roma e una al mare, quindi niente di particolare. E nel circuito vado alla fine con il credito d'imposta di qualche centinaio di euro. Sono sei anni che l'agenzia tutti gli anni mi chiede a distanza dei 3 o 4 anni la documentazione. Perché non è sufficiente l'entità delle imposte che pago, ma mi vengono a chiedere motivo del fatto che io vada in credito di qualche centinaio di euro. È veramente uno scandalo, è uno scandalo, proprio una cosa che tutte le volte che ricevo la lettera si arrabbia. Mi indigno, perché sono assolutamente indifeso, no? Assisto a tutta questa serie di cose sull'evasione fiscale. E poi per qualche centinaio di euro. Lo so, Giovanni, non le dico, essendo facendo parte del gruppo e poi avendo quote in 2 società e con la partita IVA in più, non le dico quanto me ne arrivino invece a me di cartelle, cose, eccetera, eccetera. Io passo il tempo a ridacchiare di queste cose qua e a preoccuparmi. Dopo aver riso all'inizio, mi preoccupo molto. Però che vuole fare? Il nostro dovere di cittadini che appartengono alla scandalosa parte più elevata, nonché minoritaria, della popolazione all'apice della piramide dei redditi. Per perdonatemi se rido ovviamente, perché questi sono gli effetti della progressività del sistema, che tutti coloro che possono e anche coloro che non dovrebbero e tendenzialmente nella piramide della progressività si sottraggono, avete capito? E quindi alla fine nella trasparenza dell'apice piramidale ci siamo io, Giovanni e poche migliaia d'altri e ci interroghiamo veramente su quanto siamo fessi, scusatemi. Allora, Ezio da Imperia, prego Ezio. Sì, buongiorno, anche io intervengo in funzione della prima parte del... Lo so, ma è quella che sollecita che molte reazioni. Sì. Ma di sicuro, io sono un piccolo imprenditore, 14 dipendenti, pago tutte le tasse dall'inizio alla fine, non evado purtroppo, ahimè, non sono in grado di fare nero. E il problema non è soltanto il fatto che contribuisco a ciò che poi va in tasca ad altri e amministrato come abbiamo sentito, ma quello che quando mi confronto con altre persone, altre entità che magari hanno il bonus all'asilo nido perché non arrivano a è come si fanno le graduatorie per i benefici pubblici, lei dice, sì, giusto? Ma che, sì, ma anche quelli che dichiarano falso in ISEE o altro. Sì, ma il problema è che è gente che poi magari guadagna 4-5 mila euro in nero al mese e, ancora peggio, quando ci si confronta salta fuori che io sono l'unico, tra virgolette, fesso che paga tutto quello che deve pagare. Questo dà veramente fastidio, ma proprio fastidioso. Fa nascere desideri di giustizia fiscale, giustizia fiscale. Ho capito, abbiamo trovato in lei un difensore di questi spietati, talvolta anche un po' ai limiti della, diciamo, legge, se non oltre, agenti dello Stato. Io capisco che chi si trova in una condizione come quella dell'ultimo ascoltatore alla fine finisca per tifare verso questa specie di equalizzatori in nome del preteso diritto dello Stato all'imposizione progressiva. Però naturalmente devo farlo osservare che in questo caso è come immaginare di colmare l'oceano aggiungendogli acqua col secchiello, non so come dire, nel senso che la mia opinione è, torno a dirlo ogni volta, è che l'effetto dello shock 18 punti di pressione fiscale in più in meno di 20 anni è come aver fatto prendere corrente elettrica per 3 minuti a un corpo vivente. E quindi io non credo che l'inseguimento all'evasione sia il problema fondamentale per la svolta. Il famoso pagheremo meno solo quando pagheremo tutti, nello stato attuale è solo una giustificazione per continuare a farci pagare di più, a noi che ci stiamo dentro naturalmente nella piena trasparenza, e per ottenere magari con criteri a volte un po' discutibili anche da chi non è detto che abbia evaso quello che unilateralmente gli conviene pagare se non vuole comunque chiudere. Ecco che è un altro paio di maniche. Noi adesso abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale e poi riprendiamo con la risposta alla domanda di Antonio: ma come si calcolano i contributi degli opimi rimborsi elettorali, 500 milioni di euro a botta per ogni elezione che si danno per 5 anni, anche se magari a quel punto abbattono la legislatura, e quindi l'abbattimento delle legislature diventa praticamente la forma più redditizia di autoinvestimento della politica sul proprio futuro. Ma siete voi a pagare in ascolto, cari miei topolini, siete voi a pagare in ascolto? Vi va così bene pagare così tante tasse perché i signori si mandino a casa, si danno vitalizi per un ottavo del tempo necessario a voi per averli, e dopodiché se vanno a casa si autopremiano perché i soldi che prenderanno sono 5, 6, 7, 8, anche 10, 12 volte quelli di cui i documenti restituiscono alla Corte dei Conti e che hanno davvero speso? Che risata! E questa sarebbe l'equità in nome della quale chiedono le tasse a me e a voi? Che risata amara! Informazioni sulla circolazione stradale, va! Allora, ci chiedeva Antonio da Torino, come si calcolano i rimborsi? Chi risponde? Pagliarini? Ma sì, comunque l'Antonio a Torino ha già capito tutto, perché sono calcolati non su quelli che vanno a votare, ma su quelli che hanno il diritto di votare. Quindi se uno dice io non vado a votare così non andrò in rimborso, no, niente, rimborso lo beccano lo stesso. Quindi che niente fa. Mentre c'era pubblicità ho dato un'occhiata alla roba della Corte dei Conti, giusto per la cronaca, chi interessa, l'Italia dei Valori, la Corte dei Conti ha accertato 3.400.000 di spese e in 5 anni ne incassano 21 milioni e qualcosa, giusto così per dare... giusto per dire che sì, non vorranno il vitalizio, ma insomma i numeri li prendono anche loro. Certo. Però se posso dire una cosa sola, certo, magari può servire a tutti, o che so io, tutta roba delle tasse, che ovviamente interessa a me, interessa a tutti, no? Faccio un esempio pratico. Calderoli ha presentato una legge che fa tremare le vene nei polsi a tutti, perché taglia 45.000 poltrone, no? La diminuzione dei membri, consigli comunali, provinciali, eccetera, eccetera. E quando l'ha presentata a novembre ha detto: questa legge è importantissima, ci fa risparmiare 150 milioni di euro all'anno. Il punto è che la Repubblica Italiana spende 220 milioni di euro al giorno di interessi passivi sul debito pubblico. Quello che i partiti politici si mangiano facendo le elezioni, che è una cifra enorme, 500 milioni, sono meno di 2 giorni di interessi passivi sul debito pubblico. Ecco, metto lì questo numero, primo per far capire perché c'è questa follia fiscale, secondo però per chiedere a tutti, e magari puoi fare una trasmissione, vedi un po' tu, cosa facciamo? Tu pensa che a Berlino hanno ristrutturato un museo fantastico, hanno lavorato 10 anni e hanno speso 200 milioni di euro. Noi ne spendiamo 220 al giorno di interessi passivi sul debito pubblico che ci hanno fatto questi delinquenti che ci hanno governato negli anni 80. Questo però va ricordato, perché poi bisogna trovare la soluzione, capisci? Questo è il punto importante. Io ricordo sempre a chi è in ascolto che abbiamo elaborato un contatore del terrore, il nostro orologio della progressione del debito pubblico. Lo trovate sul sito www.chicagoblog.it, e oltre che sul sito stiamo tentando di vedere con il contributo di chi e di quali mettere due grandi contatori del debito pubblico, uno nella grande piazza di Roma e uno nella grande piazza di Milano. L'idea certo sarebbe quella di metterla di fronte al palazzo della Camera o del Senato, ma come potete immaginare un impianto a LED pubblicitario su un palazzo di fronte costa carissimo, e quindi noi soldi non li abbiamo. Però l'idea non arriviamo a quello, però l'idea è quella di ricordare appunto che ci sono 2.300 euro ogni secondo che Dio manda in terra di progresso ulteriore sul debito pubblico, quello su cui Pagliarini vi ricordava gli interessi che maturano, e l'idea sarebbe quella di chiedere a questi signori cosa intendono fare per fermare questo progresso l'orologio del terrore. Siamo vissuti tutti in un mondo in cui per decenni era quanti minuti o quante ore ci separano dall'esplosione nucleare. L'esplosione nucleare avviene ogni giorno in Italia, sono questi signori che decidono come spendere. Rita, ma in realtà in anni e anni di battaglie su argomenti come questi, ma qualche volta, tranne che al referendum poi tradito, ma i partiti sono sempre stati incapaci di fermarsi e frenarsi? Oppure è una specie di regola, fanno finta e poi ricominciano nella disattenzione generale? Come funziona? Proprio il sistema che prevede questo. Dobbiamo ricordare che, pur essendo per esempio stati diversi schieramenti politici, i presidenti della Camera e del Senato, poi dell'ufficio di presidenza in realtà fanno parte tutti i gruppi parlamentari, quindi si siedono al tavolo e poi decidono. Io voglio parlare di un piccolo successo che abbiamo ottenuto, seppure parziale, proprio in occasione dell'approvazione dell'ultimo bilancio. C'è una legge, la legge 441 dell'82, che obbliga tutti i parlamentari a depositare la propria dichiarazione dei redditi, la propria documentazione patrimoniale. Ora, noi abbiamo chiesto che questa documentazione fosse resa a disposizione di tutti gli elettori. Perché? Perché la legge stessa dice che ciascun elettore può andare alla Camera o al Senato e chiedere la dichiarazione dei redditi di uno o più deputati. Allora abbiamo detto: mettiamola online. Perché dico vittoria parziale? Perché ci hanno detto che c'è la privacy. E quindi abbiamo ottenuto che questa pubblicazione possa avvenire solo dietro liberatoria. Ora io invito gli ascoltatori ad andare a vedere sul sito della Camera quanti hanno firmato questa liberatoria. Quanti? Guardi, siamo a meno del 2%. Oh, una proporzione schiacciante. Esatto, e per cui voi potete trovare online la dichiarazione, la documentazione patrimoniale di circa 16-17 deputati, adesso non so se altri se ne sono aggiunti, ma tutti gli altri fanno finta di niente, c'è la privacy e quindi non si può sapere. Vabbè, in nome della privacy violata, invece io oggi ho detto chiaramente in quale classe di reddito ci sono, immediatamente sono scattate le cose. Vergognati Giannino, che schifo, ma per quello che fai, per come urli con la tua voce da papero alla radio tutti quei soldi. Vedete, questo spiega perché la gran parte di coloro che possono si sottraggono a dichiararle le tasse, per questa intollerabile invidia sociale che si scatena. Mica io piglio quei soldi di reddito totale dichiarandoli allo Stato e pagandoci le tasse per questa sciocchezza che vengo a fare qua la mattina, che più che altro è per divertirmi, a dire la verità, e neanche per quello che scrivo sui giornali. Io, come ripeto sempre, sono socio in due società che fanno impresa vera con della gente assunta dentro, non so se è chiaro. Poi in più faccio il consulente, faccio quattro mestieri e lavoro i miei oneste 18-19 ore al giorno, come sanno quelli che mi conoscono. Non crediate che i soldi che dichiaro siano perché faccio queste sciocchezze che mi intrattengo con grande piacere. Però il fatto che poi molti di voi reagiscano dicendo giù i soldi, dannato cane, spiega perché tanta gente, proprio per non andare incontro a questa reazione su cui prospera lo Stato sprecone, evita, e molti evitano, e così siamo in pochi fissi come me a pagare, pensando però che solo abbattendoci le tasse dovremmo pagare di meno, soprattutto per non pagare i furti di Stato che vi abbiamo ricordato oggi con Giancarlo Pagliarini e Rita Bernardini, su questo insopportabile meccanismo di rimborsi elettorali che restano a botte di 5 anni anche se decidono di andare a casa, a 500 milioni di euro per ogni turno elettorale. Che schifo! E 5 volte, 10 volte, 15 volte tanto per quello che hanno speso davvero. Quindi io mi scuso con le telefonate che non abbiamo mandato ancora in onda e ringrazio, oltre a Giancarlo e a Rita, a Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marcotun in redazione, Franco Piantanudi come assistente alla diretta. Linea Generale Radio, appuntamento a domani.